You're listening to Rock FM. Festa. Questa è una canzone che ultimamente che quasi mi ero dimenticato di mettere ai miei DJ set, ora la sto mettendo perché è molto divertente. Grande Little Richard, anche se anche lui ne ha combinati di tutti i colori. La canzone che abbiamo sentito era Long Tail Sally, la voce è quella di Edo Rossi, loro invece sono i Doobie Brothers. Mississippi moon, won't you keep on shining on me? Oh, Blackwater, keep on rolling. Mississippi moon, won't you keep on shining on me? Yeah, keep on shining your light. Gonna make everything great. Mama gonna make everything alright. And I ain't got no worries, 'cause I ain't in no hurry. Take that streetcar, let's go in uptown. dance with your daddy all night long. I'd like to hear some funky Dixieland. Pretty mama, come and take me by the hand. By the hand, take me by the hand. Pretty mama, come and dance with your daddy all night long. I'd like to hear some funky Dixieland. Pretty mama, come and take me by the hand. By the hand, take me by the hand. Pretty mama, come and dance with your daddy. To hear some funk at Dixieland, pretty mama, come and take me by the hand. Come on, baby, take me by the hand, pretty mama. Doobie Brothers, questa è Blackwater. L'ho ascoltata qua da Rock FM. Vi ricordo ancora i contatti, vi ricordo che potete scrivermi, tra poco, tra l'altro, poi ovviamente come spesso accade nella seconda ora ci saranno poi eventualmente anche altre sorprese. Dicevo, scrivete pure al numero SMS 335 100 77 77, oppure all'email edo@rockfamily.it. parte un altro Tris Dassi con Iggy Pop. Stars are FM. Rock FM. Can you see him hanging around my door? Stand, stand, stand and watch me. Every day I leave home. Backstabber, backstabber, have almost ruined my home. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. I almost broke up my happy home. Got to pay you lately. Can't tell my wife. Do no more, no more, no more. How much? ballatone. Un'altra grande ballata che avete potuto ascoltare, che musica ragazzi, che musica, fatemi citare il amico, collega e fratello Max De Rio. Questi erano i Saigon Kick, Love Is On The Way, preceduta da John Lee Hooker con Backstabbers e da Iggy Pop con The Passenger. Allora vi ricordo, oltre ai soliti contatti, ve li ricordo ancora una volta, 335-100-7777 la linea SMS, oppure edo@rockfamily.it. dicevo, oltre a quello vi ricordo anche il blog edorossi.blogspot.com o i vari MySpace, edorossi.myspace, scusa, myspace.com/edorossi piuttosto che myspace.com/rockfmband. Ci teniamo alle vostre amicizie, ci teniamo a rimanere in contatto in tutti i modi. Ora ci sono i Giant, questa è I'm a Believer. Giant, vi ricordo che tra poco ci saranno sorprese, si potrebbe parlare fortissimo di Sepoltura e ve ne accorgerete perché tra poco arriverà anche la DJ Claudia. Tra poco naturalmente risponderò anche a tutti gli SMS e le email che avete mandato qui agli indirizzi della voce di rockfamily.it. Ora ci sono gli ZZ Top.